Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora l'Italia sarà anche sotto la morsa del gelo, strano a fine gennaio, però la borsa non è sotto nessuna morsa, anzi continua a salire, più 3% in questo momento Milano, più 2,1% Parigi, più 2,5% Francoforte e più 1,85% Londra, bene anche l'America, più 1,14%, ma i rialzi sono tutti rialzi o soprattutto rialzi europei, tant'è che l'euro va a quota 1,32,15, bene gli spread, adesso ne parleremo, italiani ma non solo, i titoli che più salgono, oltre al Banco Popolare che ha strappato letteralmente più 12% in questo momento, ma il Monte dei Paschi più 10,1%, Popolare Milano più 9,30%, Emilia Romagna più 7,50%, Mediobanca più 7,30%, UbiBanca più 7,20%, Intesa San Paolo più 6,16%, Mediolanum più 6%, ebbene anche Fiat più 5% come stima Microelectronics, il 5,80% lo guadagna Buzzi Unicem, il 5% il rialzo di Unicredit, il 4,70% di Exor, il 4,20% di Tod's, il 4% quello di Azimuth, bene anche Fiat Industrial, oggi c'erano anche i conti, di Fiat Industrial e di Chrysler, negativa solo Enel Green Power meno 0,20%, Enel invariata. Se a questo sommiamo che lo spread italiano è sceso di nuovo sotto i 400 punti e anche sotto i 390 punti, il BTP a 10 anni rende in calo al 5,70%, 390 punti sono ancora tanti, ma iniziamo ad avvicinarci forse a una soglia accettabile. Direi che magari continuasse a nevicare se questi sono i risultati, e soprattutto partiamo con un gallo. Allora, 349-238-6666, ovviamente il numero per i vostri sms, parleremo di questo, ne parleremo anche con l'ex ministro Brunetta. Domani esce un suo libro, Instant Book, che si chiama Maledetto Spread, e visto che dentro il PDL c'è ancora chi mastica amaro perché ritiene che lo spread sia stato utilizzato come una clava per far cadere il governo Berlusconi, ne parleremo con lui alle 18.10. Parleremo anche di Benetton, con massimo rispetto per il gruppo di Ponzano Veneto, quello che è successo in questi giorni sul mercato è quantomeno sospetto. Allora, la Consob, quando ha finito, quando il commissario Pezzinga e il presidente Vegas hanno finito di litigare, dovrebbe non accendere il classico faro, ma andare a capire esattamente come mai nei due giorni precedenti l'annuncio del delisting, ossia dell'uscita di Benetton dalla borsa, il titolo ha guadagnato il 23% con fortissimi volumi. Perché tu puoi anche guadagnare il 23% perché comprano in due poche azioni, ma fortissimi volumi concentrati da quello che si vede in pochi soggetti. E allora, come la mettiamo? E quindi Benetton, ma anche lo spread, e in apertura domani si apre un tavolo importantissimo di nuovo, anzi si riapre, tra il ministro Fornero e i sindacati, il mercato del lavoro e la prossima fase delle riforme di questo governo. Avete letto su molti giornali le varie ipotesi, ancora si è, a mio avviso, alle dichiarazioni di intenti, alle prime schermaglie, chiamiamole così. Però insomma, già oggi se ne è parlato perché in Confindustria vi è stato un incontro tra la presidente Marcegaglia e i vertici di Confindustria con le organizzazioni sindacali. Durato quasi 5 ore, tra l'altro, l'incontro tra Confindustria e sindacati, e dopo i dati brutti, obiettivamente brutti, di ieri sulla disoccupazione, Andiamo rapidi con altre notizie. Partiamo dall'oro e dal petrolio. Allora, l'oro è in rialzo di è a 1738 dollari l'oncia, il petrolio è a 99,05 dollari al barile, siamo sempre lì. La domanda internazionale per le compagnie aeree tiene, lo ha comunicato oggi la IATA. Le compagnie aeree nel 2011 hanno chiuso con un aumento dei passeggeri di quasi il 6% rispetto al 2010. Anche negli scali italiani è andata bene, il 6,5% di passeggeri in più, lo ha comunicato Assoaeroporti, più 3,6% a Roma, a Fiumicino, a Leonardo da Vinci, più 1,8% a Milano Malpensa, come dati principali, comunque più 6,5%, ossia 9 milioni di passeggeri. Dello stop alla fusione tra Deutsche Börse e New York Stock Exchange già vi hanno raccontato i nostri GR. Il blocco arrivato dall'Unione Europea, da Bruxelles, è motivato col fatto che si creerebbe di fatto il quasi monopolio nell'area dei derivati, cuore, leggo testualmente, del sistema finanziario. Io non so se siano il cuore o se siano il fegato, se siano il pancreas, e potrei scendere i derivati, personalmente non li definirei il cuore. Quello che è certo è che complessivamente gli strumenti derivati, futures, CDS, valgono 55 volte il PIL mondiale, quindi avere una borsa che ne controlla con grande fetta, forse, altro che Standard & Poor's, l'agenzia di rating, forse crea qualche conflitto di interessi, qualche monopolio eccessivo. Inflazione nell'area euro stabile al 2,7% a gennaio, in Belgio invece sarà recessione nel secondo trimestre. Le banche confermano che si sta irrigidendo il credito, già lo aveva ammesso la settimana scorsa in questo programma il direttore generale dell'ABI Sabatini. Oggi la conferma, irrigiditi i prestiti anche nel quarto trimestre. Devo dire che noi non siamo un centro studi né una fonte attendibile, ma a leggere gli sms e le mail che ci arrivano o quello che scrivete su Facebook da un mese a questa parte, ce ne eravamo accorti che le imprese tornano ad avere molta molta difficoltà quando vanno in banca, e alcuni direttori di filiali ci scrivono che sono che la casa madre che dice fai rientrare le persone, non concedere più prestiti. C'è chi scrive: lei ci ha messo del suo a far cadere Berlusconi, però troppa grazia da Sant'Antonio. Ripeto, io ero convinto che il governo fosse stato in crisi perché gli sono mancati 8 voti alla Camera ed è stato salvato dall'astensione, però evidentemente ognuno vede storie diverse. Io mi limito a quelle che posso raccontare ogni giorno. Tiremo innanzi. Allora, Fiat Industrial, utile netto quasi raddoppiato a 701 milioni di euro a fronte dei 378 del 2010. Fiat Industrial vuol dire camion e trattori, i ricavi crescono del 14% a 24 miliardi di euro. Ed è un dato molto interessante, perché io li chiamo camion e trattori, si chiamano anche macchine movimento terra per essere più corretti, ma questi ottimi dati di Fiat Industrial dimostrano che, cosa che continuiamo a ricordare, se c'è una parte del mondo, tipicamente l'Europa e anche gli Stati Uniti, che è ferma, che è in recessione, che è in stagnazione, dove si consuma poco, dove aumenta la disoccupazione, c'è un'altra parte del mondo che sta conoscendo una ricchezza mai vista nei decenni precedenti. Non è solo l'Asia, è l'Asia, è l'India, il Sud America, la Turchia, la Russia. Questo si vede anche nei dati, perché insomma camion e trattori servono laddove l'economia cresce. Poi Fiat con Chrysler nel 2011 porterà i suoi ricavi a 59,6 miliardi di euro, l'utile della gestione ordinaria andrà a 2 miliardi e 400 milioni, l'utile netto di Fiat S.P.A. è stato pari nel 2011 a 1 miliardo e 700 milioni, però con la quota 1 miliardo è l'effetto di proventi atipici, in particolare la valutazione della quota Chrysler al momento del consolidamento. E per il 2012 Fiat si attende un utile netto tra 1,2 miliardi e 1,5 miliardi, sempre Fiat. Chrysler, i debiti sono 5,5 miliardi, di cui 4 miliardi attribuibili al consolidamento del debito di Chrysler. Fiat distribuirà 40 milioni di euro di dividendo, ma solo agli azionisti delle azioni privilegiate e delle azioni risparmio. E poi il consiglio di amministrazione di Fiat ha deliberato l'emissione di uno o più obbligazioni per un ammontare complessivo fino a 3 miliardi. E devo dire che è proprio Chrysler a far notizia oggi, perché Chrysler è tornata inutile. Se scorporiamo i dati del gruppo, Chrysler ha fatto 183 milioni di euro, di dollari, scusatemi, di utile, ed è la prima volta dal 1997. Qui va dato atto a Marchionne di avercela fatta. Noi alcune volte l'abbiamo criticato, soprattutto in casa nostra, ma insomma, Marchionne ha fatto arrivare Chrysler, Obama è contentissimo, l'ha dichiarato anche la settimana scorsa, ha fatto tornare Chrysler inutile per la prima volta dal 97. E nel mese di gennaio le vendite americane della Chrysler sono state in aumento del 44%, è il miglior dato dal 2008, tant'è che Marchionne, giustamente a mio avviso, dice: siamo orgogliosi di quanto fatto. Chiudiamo sul fronte auto, perché l'alleanza Nissan-Renault ha registrato nel 2011 vendite record pari a 8 milioni di veicoli. In questo modo scavalca l'alleanza Nissan-Renault il gigante Toyota, che si ferma a 7 milioni e 950 mila, e di un soffio dietro Volkswagen, 8 milioni e 150 mila, e alle spalle di General Motors con 9 milioni di veicoli. Allora, adesso raccontiamo questa crisi, poi parliamo del mercato del lavoro con il nostro appuntamento. Oggi ce ne sono tante, ce ne sono tante notizie. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? E questa è bellissima per sapere come si sprecano, stavo per dire sprecano, i soldi pubblici. Allora, qualcuno se la ricorda la CIT, questo carrozzone di Stato che doveva promuovere il nostro turismo all'estero, non ha mai combinato nulla? Compagnia Italiana Turismo. Allora, nel 2005 fallisce con un buco di 500 milioni di euro, mezzo miliardo di euro, nonostante fosse piena di attività, piena anche di risorse. L'accusa confermata dal PM, l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta. PM milanese Riccardo Targetti, 11 rinvii a giudizio, tra cui Gian Vittorio Gandolfi, che nonostante i legami politici con l'entourage, si legge nella richiesta del PM, con l'entourage di Andreotti della Fininvest e della Lega, dilapidò una montagna di aiuti pubblici. Pensate, investimenti fallimentari in un hotel super lusso in un'isola veneziana mai realizzato, soldi spesi per acquistare Lamborghini, Ferrari, vacanze per tutti i vertici aziendali, consulenze fittizie anche dirottate verso i paradisi fiscali, e vi assicuro dentro c'è di tutto, e le Lamborghini e le Ferrari sono solo una piccola parte dell'intero montare. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Il senatore del PDL Riccardo Conti è veramente un uomo da invitare, appena vorrà venire a Savadanaio a Focus Economia, perché è riuscito con un'operazione assolutamente regolare, ci mancherebbe, a guadagnare 18 milioni di euro in meno di un giorno. Ora, qui in giro c'è Soros, Buffett e poca altra, qualche fondo lacusta e qualche hedge fund, perché insomma, cosa ha fatto? Ha comprato e rivenduto una palazzina nel cuore di Roma nella stessa giornata, numero 64 di via della Stamperia, dietro Fontana di Trevi. L'aveva acquistata da un fondo Omega pagandola 26 milioni e mezzo. Il giorno stesso la rivende all'EMPAP, l'ente previdenziale degli psicologi, che a questo punto si chiederanno anche come è stato possibile non arrivarci da soli, e l'EMPAP l'ha pagata 44,5 milioni. Ora, al di là, capisco che uno fa lo psicologo e non l'immobiliarista, ma continua a fare lo psicologo, perché pagare una cosa 18 milioni di euro in più rispetto all'acquisto fatto il giorno stesso mi sembra un po' tanto. Complimenti al senatore Conti, PDL, futuro immobiliarista, Riccardo Conti, 18 milioni di euro guadagnati in un giorno comprando e rivendendo la palazzina al numero 64 di Via della Stamperia. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, occupiamoci di Bruxelles, anzi, ogni tanto, perché pure lì, i vizi si prendono subito. In tempi di vacche magre, la lista stilata dal Parlamento di Strasburgo sulle spese per i viaggi delle delegazioni di eurodeputati, che paghiamo tutti noi, è destinata a far discutere. Stiamo parlando del 2010. E allora, in cima alla top parade, un viaggio a Kinshasa, quindi in Congo, di una delegazione fondamentale, immagino, di una delegazione di 50 europarlamentari, costata al contribuente europeo, quindi anche noi, un milione di euro per un viaggetto in Congo, paese noto per essere caro, cioè Tokyo e il Congo hanno cifre del genere, 20.500 euro a testa, 2.500 euro a testa al giorno in Congo, però. Ma il record, questa fonte è la Bild tedesca, spetta una delegazione, io vorrei sapere i nomi, se riusciamo a trovarli, di 4 eurodeputati, che hanno dovuto fare una visita fondamentale a Buenos Aires per 5 giorni nel marzo del 2010, piena crisi, hanno speso 5.260 euro al giorno pro capite. E ancora, non male, la missione di 4 giorni per 39 eurodeputati in Ecuador, 460.000 euro. Anche lì, paese notoriamente caro, il costo della vita è alto. E vi faccio arrabbiare fino in fondo: 3 giorni a Washington per 28 eurodeputati pagati e costati a noi contribuenti 204.000 euro. E concludo con una visita di 8 giorni in Cina per 11 deputati, 176.000 euro. Magari il viaggio è incluso, spero, perché sennò veramente mi sento male. Poi sul bilancio di Strasburgo pesa anche il vertice di 7 giorni, cioè un vertice di 7 giorni. Yalta hanno fatto tutto in mezzo pomeriggio, 7 giorni per discutere del rapporto Africa-Caraibi-Pacifico a Tenerife, voglio dire, no? Spesa per la delegazione dei 64 membri 707.000 euro. E chiudiamo con il viaggio di 51 eurodeputati a Siviglia, costato praticamente la bellezza di 2.442.000 euro complessivamente. Anche Siviglia un po' il flamenco, un po' il vino, presto si gonfia la nota spese. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Vorrei chiudere di nuovo sulla CIT, perché la Compagnia Italiana Turismo era veramente, poteva essere un gioiello. Aveva ricevuto, pensate, per la sola costruzione di villaggi turistici in Basilicata 19 milioni di euro dallo Stato. No, tutti bruciati, perché ha chiuso con 500 milioni di euro di debiti. E poi sarebbe interessante anche seguire e capire cosa ha da dire l'ultimo amministratore delegato. Comunque, pensate, nonostante questo, aveva acquistato Lamborghini fuoriserie, vacanze St. Moritz, gioielli di Bulgari e poi altri episodi, 326 coperti, cioè coperti da ristorante, pagati dalla CIT in ristoranti Vista Mare in Puglia e Lucania per dare ospitalità a parenti e amici di Arcangelo Taddeo, amministratore delegato della CIT SPA, o i 40.000 euro spesi per i voli con jet privati dallo stesso Taddeo. Lo so, ballano. Mercato del lavoro, 5 ore l'incontro informale tra Confindustria e sindacati per fare il punto sulla riforma del mercato del lavoro e definire le posizioni da portare domani al tavolo con il governo. la CGIL dice attenzione, la disoccupazione effettiva nel 2011 è all'11,5%. Il ministro Fornero, rispondendo a un question time alla Camera, dice attenzione, noi vogliamo valorizzare il contratto di apprendistato come veicolo di ingresso per i giovani nel mondo del lavoro. Noi riteniamo che l'apprendistato debba essere un veicolo di ingresso molto importante per i giovani nel mondo del lavoro e intendiamo dare all'apprendistato una vera connotazione di formazione professionale. Quindi non è semplicemente un nome, è invece un veicolo alla formazione professionale che va valorizzato necessariamente con la collaborazione delle regioni, anche per il rispetto delle competenze che le stesse hanno. E poi le dichiarazioni dell'incontro di oggi, la Presidente Confindustria, Marcegaglia, è andata bene, confronto utile su tutti i temi a 360 gradi. È andato bene, nel senso che abbiamo avuto un lungo, perché abbiamo cominciato a 9:30, un lungo confronto utile, non terminato, dobbiamo continuare, su tutti i temi, quindi a 360 gradi, abbiamo parlato flessibilità in entrata, in uscita, ammortizzatori sociali. Come sapete, non abbiamo deciso tutti insieme di non fare un documento perché non vogliamo fare la guerra dei documenti, noi siamo interessati a un buon risultato di questa trattativa, però abbiamo scambiato idee, quindi non abbiamo ancora una posizione condivisa su tutto, vediamo, non sappiamo nemmeno se ci arriveremo, ma insomma il confronto è stato utile e andrà avanti. Ci tengo anche a dirvi, perché ho visto alcune notizie, noi ieri sera io ho visto le altre associazioni di imprese, Rete Impresa Italia, ABI, ANIA, cooperative, perché anche con loro ovviamente stiamo ragionando per vedere se ci sono dei punti in comune, ci sono, quindi non c'è nessun conflitto con i commercianti assolutamente, e l'idea era anche che, finito questo incontro con CGIL e CISL UIL, ci rivediamo, ci risentiamo con le altre associazioni di imprese. Quindi stiamo lavorando per, non in una logica, ci mancherebbe altro, di contrapposizione al governo, tutt'altro, in una logica di condivisione là dove è possibile con le altre associazioni di imprese, con i sindacati di alcune posizioni. Il lavoro non è terminato, andrà avanti. E poi il numero della CGIL, Susanna Camusso, sulla stessa falsa riga, devo dire, abbiamo cominciato uno scambio di opinioni, ci sono ipotesi condivise, ragioneremo anche in base all'agenda del governo. Devo dire che abbiamo cominciato uno scambio di opinioni molto importanti su quali sono le necessità che un paese che ha una così alta disoccupazione ha, una necessità di riorganizzare il sistema produttivo, ha in termini di ammortizzatori, e quindi dentro gli ammortizzatori la necessità di uno strumento universale che copra tutti e la necessità della cassa integrazione come strumento che aiuta sia i problemi di mercato sia i processi di riorganizzazione. Abbiamo detto che questo è uno dei temi, peraltro questo tema l'aveva annunciato anche il governo nei titoli che c'era. Come abbiamo detto, abbiamo cominciato uno scambio di opinioni, quindi non è che abbiamo affrontato insieme dei temi, tant'è che abbiamo detto che torneremo a ragionare poi sui vari aspetti che non abbiamo ancora affrontato. Ma guarda, secondo me c'è una fantasia in giro che dovremmo fare documenti, eccetera. Nulla di tutto questo. Abbiamo ragionato sui problemi che ci sono, sulle ipotesi che sono condivise e sulle quali poi ragioneremo anche sulla base di un'agenda che il governo dovrebbe domani indicare. Quindi stiamo costruendo una trattativa parallela. Il confronto è con il governo. E oltre al lead della CGIL Susanna Camusso sentiamo anche Raffaele Bonanni. Sì, mi piace metterli con questa musica che forse non c'entra con l'età dei personaggi, ma la Marcegaglia non è giovane, dai. Però va bene anche così, sacro e profano. Bonanni, per imprese e sindacati c'è esigenza di una sola direzione, si sta lavorando bene, ci sono possibilità di convergenze. Ci sono possibilità di convergenza, stiamo studiando, bisogna ancora coltivare il terreno, però si vede che c'è l'esigenza sia da parte nostra che da parte di Convindustria di andare in una sola direzione pur di trovare una soluzione. Vediamo un po', bisogna ancora lavorare, però il confronto è davvero positivo, ci sono diverse questioni da limare, però la discussione è positiva. Stiamo lavorando sul fatto di garantire le tutele appunto dei lavoratori, migliorando il sistema di ammortizzazione che già avevamo, sapendo che non siamo assolutamente disposti a entrare in una logica di avventura, di guardare a nuovi sistemi quando non ci sono né soldi e né strutture di responsabilità che possono davvero proteggere i lavoratori. Quindi credo che anche l'imprenditore dovrebbe avere l'interesse a non mandare allo sbaraglio i lavoratori come taluni ritengono che si possa fare. Ora attenzione, perché non c'è solo l'articolo 18, poi non so nemmeno se entrerà nel gioco. La riforma del mercato del lavoro dopo il decreto Salva Italia, il decreto Cresci Italia, è veramente l'altro tassello enorme. Come il ministro ha dichiarato più volte, si cercherà di vedere se, come accadde in Germania 10 anni fa, alcune riforme, per esempio collegare al periodo di studio l'apprendistato dentro le imprese, possono permettere maggiore flessibilità anche in ingresso e arrivare a, soprattutto lo dico con la massima trasparenza, a un po' più di equità nei contratti. Qui abbiamo la generazione sopra i 40 che ha tutti i diritti tutelati, colpa anche dei sindacati, e poi il patto famigerato per cui sotto i 30 sono solo interinali e precari, eh? Esagero, ma... ad alcuni non piacciono le nostre nuove basi, vabbè. Cerchiamo di prendere tutti i target, giovani. È dedicata a Corso Como, a chi era lì sabato sera. Vabbè, dai. Mercato ha chiuso più 2,76%, Parigi più 2%, Francoforte più 2,5%, Londra più 1,75%, l'euro a quota 1,32, ottimo l'andamento dei bancari, Banco Popolare più 10,90%, Monte dei Paschi più 10,20%, Popolare di Milano più 9,44%. Parleremo anche di questo, concludendo però l'approfondimento sul mercato del lavoro dopo il meteo e la pubblicità. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, del mercato del lavoro parleremo anche domani. Oggi vedo anche molti messaggi, avremo un'ampia pagina quasi monografica domani, è l'incontro, infatti il secondo incontro, quello più dove si entra nel vivo delle proposte con il ministro Fornero. Alcuni di voi criticano il fatto che si debba risolvere il problema dei lavoratori interinali. A mio avviso, e lo dico con molta tranquillità, c'è un problema di uguaglianza contrattuale nelle nuove generazioni rispetto alle vecchie, cioè non ha senso avere tante tutele o così tante tutele, lo dico anche contro il mio interesse, per chi ha più di 40 anni e avere in sostanza accettato come dato di fatto contratti atipici per tutti. Comunque andiamo avanti con la borsa e poi invece passiamo anche alla vicenda Benetton, che qualche lato oscuro a mio avviso ce l'ha. 349-238-6666 per i vostri sms. Più 2,76%, miglior borsa oggi in Europa, Milano, Parigi più 2,1%, Francoforte più 2,44%. Londra più 1,86%, l'America guadagna l'1,10%, l'euro a quota 1,32%, fortissime le banche, dicevo Popolare, Monte dei Paschi, Milano, Emilia Romagna e UBI fanno il 10,90%, il 10,20%, il 9,40%, il 7,70% e il 7,35% di rialzo. Aggiungiamo Mediobanca più 7,30%, Intesa più 5,5%, Unicredit più 4,80% e direi che i rialzi più forti sono qui. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Banche. Spread sotto il 3,90 e poi? Esatto, per parlare di piazza affari delle banche occorre guardare ai titoli di Stato. Il rendimento dei titoli a 10 anni si è spinto al 5-6%, lo spread, come hai detto tu, è sotto 400, in particolare ha toccato un minimo a 381 punti e ha chiuso a 385. In pratica si allenta la tensione sui titoli di Stato e quindi ne beneficiano soprattutto i titoli bancari, che ricordiamo hanno i forzieri pieni soprattutto di titoli di Stato. In primis Monte dei Paschi, che è la banca più esposta nei confronti dei titoli di Stato, ha in pancia circa 25 miliardi di bond governativi e non a caso ha fatto più 10,2%. Poi oggi si è tenuta l'assemblea dei soci e Mussari, il presidente appunto della banca senese, ha ricordato che con le misure prese verrà rispettata l'asticella del 9% di core Tier 1, cioè verranno rispettati dei dettami, sì, dell'EBA, l'autorità europea delle banche, delle cioè banche, le richieste che arrivano dall'Europa, chiarissimo, senza l'aumento di capitale. Sì, che andiamo rapidi perché abbiamo anche molti temi oggi, Leonora. Oltre alle banche, il gruppo Fiat, i dati li abbiamo già letti, ottimi per Chrysler, molto buoni anche per Fiat, sia Industrial che SPA, i titoli. I titoli sono andati molto bene, in Fiat ha fatto più Fiat SPA più 5%, ha festeggiato i conti più che altro di Chrysler, perché quelli di Fiat in verità hanno sofferto, sì, dell'andamento delle vendite in Europa e in Italia, comunque tutte compensate da Chrysler. Anche Fiat Industrial ha fatto più 3,47%, i conti del resto sono stati apprezzati dagli analisti. Enel resta in questa bellissima giornata per i mercati al palo, un po' su tutto. Enel invariata, Enel Green Power meno 0,26, Terna ex Enel meno 0,36%. Sì, Enel si mette in conto che i vertici dell'azienda potrebbero anche decidere di effettuare una sforbiciata alla cedola. Innanzitutto si era messo in conto che ieri, in occasione della pubblicazione dei conti del 2011, venisse anche annunciato un acconto sul dividendo, cosa che non è stata fatta, e ha dato in là una serie di rumor e di ipotesi secondo cui appunto potrebbe essere effettuato un taglio del dividendo. E proprio per questo alcuni analisti hanno rivisto al ribasso le valutazioni dell'azienda. Per adesso comunque la società ha solo indicato che manterrà la politica del dividendo, ovvero di distribuire il 60% dell'utile. Allora, traffico e poi torniamo in diretta ancora con i titoli e poi parliamo di Benetton. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti. Allora, Eleonora, chiarite le banche, Fiat e anche la vicenda Enel. Segnalo di nuovo molto forti alcuni titoli, Tod's più 5%, anche Ferragamo più 2,20%. Volete sapere di Fondiaria Sai? Oggi non rientra tra i migliori e i peggiori. Il migliore in assoluto è Risanamento più 19,70%, CDC Point più 18%, peggiore Set Pagine Gialle meno 8,40%. Dicevo, Ferragamo un po' più indietro, ma insomma ha fatto il botto negli ultimi giorni. Da venerdì che le azioni corrono dopo la pubblicazione dei conti 2011, chiusi con un fatturato in crescita di oltre il 26%, e quindi ovviamente si continua a festeggiare i conti in ottima performance, soprattutto anche negli ultimi mesi dell'anno, quando invece le società hanno iniziato a soffrire i primi colpi della crisi. Grazie Leonora Michele, Radio Corriere sulle 24 ore. Noi restiamo invece in tema di borsa, perché Benetton ieri ha annunciato il delisting, ossia che vuole uscire dalla borsa, offrirà, come sempre in questi casi, agli azionisti di comprare le azioni, le raccoglierà, tutto bene, tutto regolare, c'è però un però. Quello che è successo al titolo nei due giorni precedenti: la Consob accenderà il suo faro, speriamo che sia un bel farone, perché i movimenti dei titoli sono stati veramente, veramente strani. 349-238-6666 per i vostri sms. Sì, movimenti strani, lo dico proprio guardando i dati di fatto. Volumi fortissimi, adesso veniamo anche alle proporzioni, concentrati su pochi soggetti, 23% in più il titolo. Simone Filippetti, del Sole 24 Ore. Allora, a pensare male, buonasera anche a te. A pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca, diceva Andreotti ogni tanto. Tutto bene, l'operazione dei Benetton, abbiamo capito, hanno smentito su Zara, ma insomma, adesso qualcosa deve essere trapelato, oppure pochi soggetti sparsi in diverse aree del paese hanno intuito che Benetton stavano per uscire dalla borsa. E spieghiamo anche perché uno compra prima del delisting. Beh, il sospetto è forte a guardare i volumi del titolo Benetton, perché esattamente l'annuncio è stato fatto martedì, ieri mattina. Già lunedì il titolo Benetton è passato in mano per circa 2 milioni di pezzi, che sono circa 5 volte tanto rispetto alla media delle ultime settimane. Sostanzialmente fino alla fine del mese di gennaio Benetton ogni giorno scambiava tra i 400.000 e i 600.000 titoli. Poi improvvisamente il 25 di gennaio è salito a 800.000 titoli, siamo già al doppio, per poi fare il boom lunedì con addirittura 2 milioni, quindi 5 volte tanto. Allora insomma, viene da pensare che forse qualcuno ha saputo qualcosa. Chissà. Bene, una famiglia numerosa, quella dei Benetton, ma sai, più che il problema è, adesso al di là della battuta, il problema è non solo dei proprietari, degli azionisti, ma anche e soprattutto dell'entourage, perché dobbiamo anche ricordare che cosa capita a un titolo quando avviene un delisting, cioè viene offerta una cifra per portare le azioni, poi il titolo valga 5 euro, tu offri un po' di più di solito. Allora la speculazione dov'è che va a collocarsi? Tu sai che c'è un delisting, che verrà levato il titolo, e inizi a comprare perché sai che io ti offrirò qualcosa in più. Sì, beh, ti collochi a monte, perché infatti ieri, subito dopo l'annuncio, il titolo era già schizzato, per cui chi avesse comprato i titoli nei giorni immediatamente prima l'annuncio, tra l'altro giorno in cui il titolo era sceso sostanzialmente vicino ai minimi storici, chiaramente si porta a casa una lauta plusvalenza. Ora, che sia, come dire, che in realtà io non penso che sia legato molto alla famiglia, perché alla fine, siccome sono i Benetton che comprano le azioni, per loro più il prezzo è basso e più conviene, perché spendono di meno. Per cui, però sai, quando si strutturano operazioni di questa portata, ci sono tanti soggetti coinvolti, quindi come dire, è possibile che da qualche parte ci sia, no, una perdita o una falla. Ecco, chiariamo però, visto che ce lo chiedono anche gli ascoltatori al 349-238-6666, se ti puoi mettere le cuffie correttamente, perché entrano un po' nel microfono, Simone, grazie. Chiariamo perché i Benetton vanno a compiere questo delisting, grazie. Lo fanno perché sostanzialmente è un buon affare per loro. Sì. E in quanto il titolo è sceso tantissimo, ha perso circa il 40% negli ultimi 6 mesi. Oggi capitalizza 600 milioni di euro, sostanzialmente quasi la metà del solo patrimonio immobiliare della catena dei negozi, quindi senza contare poi il brand, l'avviamento e quant'altro. Per cui oggi portarsela via da borsa, sostanzialmente per la famiglia azionista è un buon affare. Bisogna vedere se sarà anche un buon affare per i piccoli azionisti, perché bisogna vedere poi le persone quanto avranno in carica il titolo. E l'ipotesi di Zara, insomma, ieri è stata smentita. C'era però chi univa il delisting a una maggiore capacità di manovra, diciamo così, per quello che riguarda la Benetton da parte della famiglia. Beh sì, la famiglia qualcosa deve fare sull'azienda. Considerate che Benetton fattura circa 2 miliardi di euro e Zara, che è arrivato molto dopo sul mercato, però ha fatto una concorrenza pazzesca, oggi fattura 10 miliardi, quindi Zara è 5 volte la Benetton. Evidentemente, insomma, c'è qualcosa da lavorare per su. Per diventare marchio, il primo gruppo al mondo nel settore, perché ha superato anche H&M con le varie controllate. Questo a dire, forse anche, mi permetto di dire, un'occasione che si è persa, cioè quando i Benetton si sono messi a concentrarsi più sulle autostrade e sugli autogrill, lì insomma sono arrivati altri concorrenti in quel mercato. Ma questa, come si dice, è un'altra storia. Grazie a Simone Filippetti, grazie a voi, del Sole 24 Ore. L'offerta di Edizione Holding, Benetton ha azioni proprie per il 7,77% del capitale, interesserà poco più del 25% del gruppo di moda. Sarebbe ai valori attuali circa uno sforzo di circa 185 milioni di euro. E poi vedremo che premio verrà dato. Adesso, in questa versione Focus Economia, Disco Dance, andiamo sul GR, poi il ministro Brunetta, non lo facciamo ballare, lo interroghiamo sullo spread, ha scritto un libro che esce domani, è ancora molto arrabbiato per il modo in cui lo spread si è abbattuto sul governo Berlusconi, ma dà la colpa anche all'ex governo Berlusconi. Tra pochi minuti dopo il GR, 349-238-6666 per gli sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, nell'ottima giornata per le borse, più 2,76%, lo ricordiamo per chi si fosse appena messo in collegamento a Milano, più 2,44% a Parigi e più 2% a Francoforte. Benissimo gruppo Fiat, ma soprattutto i bancari oggi. Banco Popolare più 10,90%, Monte dei Paschi più 10,20%, Popolare Milano più 9,5%, Popolare Emilia Romagna più 7,70%, Ubibanca più 7,35%. L'altra buona notizia riguarda lo spread, perché la differenza tra quanto costa a noi indebitarci rispetto a quanto non costi la Germania è scesa non solo sotto i 400 punti, ma anche sotto i 390 punti, 389. Con i BTP a 10 anni in calo come rendimento, e questa è una buona notizia, cioè ci costa meno indebitarci, al 5,70%. E allora, occupiamoci di spread, ma con un'analisi un po' più d'ampio raggio. Cosa è successo negli ultimi mesi, 6 mesi, 7 mesi? Ma di spread e di spread si occupa anche un libro che domani è in edicola, o meglio in libreria. Si chiama Maledetto Spread, storia di una grande truffa. Vari gli interventi, Renato Farina, Giancarlo Lenner, Flavio Pasotti, l'onorevole Stracquadanio, a cura di Maurizio Belpietro e l'ex ministro, l'onorevole Renato Brunetta, che è nostro ospite. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi, comunque è in edicola assieme a Libero, al quotidiano Libero. È in edicola con Libero, ha ragione, infatti è stata una correzione. 3,80 euro. Quanto? 50 pagine, 3,80 euro. 3,80 euro. Allora, come promozione ci siamo. Sì. Mi dia, se vuole, un primo commento sull'andamento dello spread invece in queste ultime 2 settimane, poi veniamo anche alle tesi del Libero, perché oggettivamente dopo un irrigidimento, una cristallizzazione, stiamo osservando una tendenza a rompere, poi ci ritorna sopra, la soglia dei 400 punti. Ma vede, bisogna intanto fare un po' di chiarezza, perché da questo spread siamo stati tutti travolti, l'abbiamo demonizzato, divinizzato, strumentalizzato, usato come clava contro Berlusconi, magari qualcuno l'ha usato come controclava nei confronti di Monti. Cerchiamo di capirci qualcosa, facciamo l'operazione verità. Allora, intanto lo spread non è gestito e determinato dai mercati, ma è determinato da 10 grandi banche internazionali che, decidendo di vendere o di comprare, decidono il prezzo, cioè il prezzo dei debiti sovrani, cioè il prezzo dei titoli che vengono a scadenza quando ci sono le aste, o dei mercati secondari. Per cui quello che decidono queste grandi banche internazionali succede. Prima cosa, quindi non pensiamo ai mitici mercati, all'universo dei compratori, dei venditori, libera concorrenza perfetta, quelle cose che si studiano a scuola, sono 10 grandi banche mondiali che decidono, prima cosa. Seconda cosa, da un certo momento in poi, da giugno dell'anno scorso in poi, queste 10 grandi operatori, grandi banche decidono di operare sui debiti sovrani in maniera da deprimere il valore degli asset e quindi aumentare il valore dei rendimenti. E lo fanno, attenzione, non con l'Italia perché ce l'hanno con l'Italia, non lo fanno con la Spagna perché ce l'hanno con la Spagna, lo fanno con tutti i debiti sovrani dell'Unione Europea, o meglio dell'Eurozona. Perché? Perché vogliono usare la liquidità a loro disposizione per fare profitti, che non è mica male, per fare profitti, avendo l'Eurozona una banca centrale non interventista, cioè che non interviene a controllare i corsi dei titoli, dei debiti pubblici. E quindi piatto ricco mi ci ficco, negli Stati Uniti non possono fare questo gioco perché la Fed stampa moneta, e con la sterlina pure, con il franco svizzero pure, con lo yen giapponese pure, il renminbi è un'altra cosa, cioè la moneta cinese, quindi il mercato più fecondo va su vaso di coccio, diciamo, è l'Europa. Ma la cosa divertente è che questa speculazione, che ripeto non è una brutta parola, fanno soldi, questa speculazione avviene in Europa per tutti i debiti sovrani. Naturalmente avviene di più per chi ha più debito, avviene di meno per chi ha meno debito. Ma se si guardano, ed è il lavoro che ho fatto con questo libro che faccio quotidianamente, se si guardano gli andamenti giornalieri si vede una cosa divertente, che sono tutti sincronizzati, quando vanno su tutti, quando stanno stazionari sono tutti stazionari, quando vanno giù come in questi giorni, in queste ore, vanno tutti giù, e con delle caratteristiche un po' particolari che io chiamo masochismo, cioè se un paese si fa del male da solo, come è successo per esempio in Italia da luglio in poi, per cui l'opposizione usa lo spread contro chi è al governo, oppure si danno informazioni, come dire, distorte di un'azione di politica economica piuttosto che di un'altra, c'è una certa attenuazione. Se però si guardano gli sciami, come li ho chiamati, degli spread da un anno a questa parte, si vede che sono tutti sincronizzati e sono divisi sostanzialmente in due grandi aree: l'area dei virtuosi, area Marco, diciamo, il Marco è il punto di riferimento. I virtuosi sono quelli che hanno poca distanza dal Marco, chiamiamoli Austria e Francia, cioè quelli della AAA o ex AAA, che avevano 50 punti base prima di giugno di differenza, cioè erano lì col Marco. Poi c'erano i quasi virtuosi, come l'Italia, che aveva poco, anni fa 150 punti, 160 punti base dal Marco, più o meno un po' di più la Spagna, no? E poi tutti gli altri. Cosa succede? Che da giugno in poi, da luglio in poi, e tutti diventano meno virtuosi, che so, la Francia passa da 50 a 150 a 200, l'Austria, che pure è virtuosissimo, non ha problemi di pagamenti, non ha problemi di nulla, pure salta. Certo. Però una cosa, Ministro, adesso abbiamo il traffico, tutto bene, cioè, sicuramente la dinamica dello spread è una dinamica internazionale, l'attacco è arrivato ai paesi a maggior debito in Europa, ma non solo. Però io, dopo il traffico, vorrei sapere da lei se non è un problema di autocritica, ma insomma, se oltre a una variabile esterna non c'è anche una variabile interna, se anche voi a quel tempo al governo non abbiate messo i mercati nella migliore delle condizioni possibili per attaccare l'Italia. E voglio dire, lo spread italiano sale nel momento in cui, da metà giugno in poi, il governo perde le elezioni amministrative, perde il referendum, iniziano le tensioni e inizia un silenzio lunghissimo del ministro Tremonti, per cui diventa sempre più difficile capire qual è il pensiero del ministro dell'economia a cui tutti guardano fuori dall'Europa. Ecco, vorrei capire se anche il governo non abbia delle responsabilità dopo il traffico. Allora, di nuovo in diretta con l'onorevole Renato Brunetta, il libro appunto si chiama Maledetto Spread. Dunque, fermo restando tutte le variabili internazionali, il fatto che 10 grandi banche muovono lo spread e quindi quanto ci costa indebitarci, il fatto che si sono mossi tutti all'unisono, però, onorevole Brunetta, insomma, dicevo, da metà giugno in poi il governo va in difficoltà amministrative, referendum, poi mancano... si arriva a novembre con gli 8 voti mancanti, il ministro Tremonti entra in un silenzio sempre più forte, sempre più rumoroso. Allora, al di là di quello che possiamo chiamare lo zoccolo duro dello spread, quello che deriva da versante esterno, insomma, c'è anche qualcosa di interno. Io varia da giorno in giorno, in cui i giorni sono più pessimista e i giorni in cui sono più ottimista. Diciamo che un 70-80% lo spread è esogeno e deriva dai comportamenti di questi 10 grandi operatori. Un 20% è legato alla specificità del paese. un esempio che risolve tutto. Noi avevamo uno spread più basso della Spagna strutturalmente, esatto, di 50, 60, 70 punti. Ma a mio avviso anche correttamente, perché siamo un paese un po' più solido della Spagna. Erano migliori, cioè. Noi abbiamo un tasso di disoccupazione dell'8-8,5%, la Spagna. Ma anche un export che la Spagna sogna. Certamente. I nostri fondamentali sono migliori, strutturalmente migliori. Bene. Noi avevamo giustamente uno spread di 50, 60, 70 punti base fino a giugno, fino a maggio, giugno. Sì, fino a maggio. Poi inizia la fibrillazione e con la fibrillazione inizia anche, come dire, il nostro masochismo governativo da un lato, le cose che diceva lei condivide anche da me, cioè segnali non, cioè, l'assenza di Tremonti ha pesato. Ma certamente, ma guardi, non voglio essere, il governo dava risposte non sufficienti, mettiamolo così, o quando le dava in ritardo, e anche quando le dava in ritardo le dava spesso contraddittorie. E io faccio pesare però questa endogeneità, chiamiamola così, un 20%. Ma le dico di più, la Spagna a un certo punto in questa fase diventa più virtuosa di noi, pur nel peggioramento, nel senso che il suo spread relativo al nostro si abbassa. E va a elezioni, però. E va ad elezioni, attenzione, questo è un punto cruciale. Prima dichiara di andare alle elezioni, e già questa dichiarazione fa migliorare il valore relativo, e cioè il peggioramento è minore rispetto a quello dell'Italia. Poi ci sono le elezioni, nel mentre ci sono le elezioni da noi c'è il cambio di governo. Uno potrebbe dire, bene, si riposiziona nuovamente, l'Italia diventa più virtuosa perché se n'è andato Berlusconi, arriva uno serio come Monti. Per niente. Perché? Cioè la Spagna rimane più virtuosa di noi pur negli spread più alti, semplicemente perché la Spagna ha davanti 5 anni, certo, mentre Monti per definizione ha o pochi mesi o 15 mesi. Ecco, io vorrei, siccome so che poi lei ci deve lasciare, però devo andare a votare, esatto, ho ancora due domande per lei. La prima, restiamo sul tema che lei toccava. Io apprezzo anche, insomma, che lei riconosca che oltre al ruolo giocato dalle opposizioni nell'utilizzare lo spread al di là della sua componente interna, come se fosse tutta conseguenza del governo, anche il governo ha fatto i suoi errori, il silenzio, l'assenza... Mi faccia dire una cosa, scusi, en passant. Il governo Berlusconi ha fatto manovre cumulate per raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013 per 265 miliardi di euro. Il governo Monti ha fatto una manovra cumulata, il primo suo decreto, per 60 miliardi di euro. Il tutto totale 325 miliardi di euro al 2014. E come si può ben vedere, l'80% dello sforzo l'abbiamo fatto noi, il 20% giustamente l'ha fatto Monti. Solo che spesse volte noi facevamo queste manovre e le facevamo con un eccesso di rissosità interna di coalizione. Secondo me ci sono stati anche altri errori, per esempio ritengo personalmente che la riforma delle pensioni andasse fatta, era nel vostro programma. Però attenzione anche su questo. Io sono perfettamente d'accordo, però la riforma di cui si parla è l'ultimo miglio della riforma delle pensioni, perché noi avevamo fatto la riforma delle pensioni che portava all'eliminazione della famosa gobba, l'avevamo fatta già in due occasioni durante i 42 mesi del governo Berlusconi. Mancava l'ultimo miglio, cioè mancava l'eliminazione delle pensioni di anzianità, tanto per essere chiari, non siamo riusciti a farla. Io ho scrissi un editoriale di fuoco sul Sole 24 Ore da questo punto di vista, che era la grande occasione, ma era, attenzione, l'ultimo miglio. No, però sto dicendo, io volevo concludere il ragionamento, cioè apprezzo, come apprezzo sempre, quando uno fa anche autocritica, oltre che a manifestare critiche a un eccesso di enfasi sullo spread solo come elemento interno nostro, non che non vi sia anche l'elemento interno, ma solo come elemento interno nostro. Le chiedo però, è sempre la storia, non si scrive con i se e con i ma adesso a mente un po' più fredda, una cosa che lei non avrebbe fatto o avrebbe fatto, al di là del una posizione che avrebbe preso. Lei citava il caso spagnolo, per esempio la Spagna è andata a elezioni, avrebbe insistito di più per andare a elezioni nonostante l'oggettiva tempesta? Io avrei insistito di più nel decreto Romani Brunetta Calderoli, il decreto sviluppo. Ci furono delle remore da parte del Quirinale che portarono quel decreto a diventare un maxi emendamento alla legge di stabilità. Ecco, se si potesse tornare indietro, io avrei insistito nel fare quel decreto, perché quel decreto era l'antesignano del Salva Italia, con contenuti assolutamente fondamentali per il Paese. 60, 70, 80 giorni dopo i decreti Monti, chiamiamoli così, quelli che sarebbero stati i decreti Monti, e le assicuro, ma glielo posso anche mandare, il decreto mai nato, il Romani Brunetta Calderoli era assolutamente in grado di, e probabilmente quel decreto avrebbe cambiato in quel momento la percezione della congiuntura anche nei confronti dei mercati. Ecco, e chiudiamo su questo, perché lei, citando l'esempio spagnolo, diceva insomma, loro hanno 4 anni di governabilità. Recentemente, la settimana scorsa, il Financial Times, però nell'elogiare il Mario Monti, Mario Draghi, Mario, ha detto il governo Monti è forse quello più in questo momento dei paesi grandi da cui si può avere di più, perché Sarkozy è sotto elezioni, Angela Merkel è sotto elezioni e Monti è appoggiato da dei partiti che devono appoggiarlo perché altrimenti non c'è l'alternativa, e quindi è forte, riesce a fare queste riforme per questo motivo, perché nessuno ha il coraggio, come dite ogni tanto voi, di staccare la spina. Lei è d'accordo su questo, cioè che sia dei paesi grandi il governo più forte per questa, diciamo, forse eterogenesi dei fini, ma il risultato è quello? Ma vede, è un ragionamento un po' strano questo, perché portandolo all'estremo, se si eliminassero tutti i governi, se si eliminassero tutte le elezioni, se si eliminasse tutto il gioco democratico, ci sarebbe molta più stabilità. Quando si vuole verificare la bontà di un ragionamento basta portarlo un po' all'estremo per vedere se regge o non regge. Chiaramente è una barzelletta questa affermazione che ho fatto, come una barzelletta quella su Monti, che in questo momento darebbe più garanzie. Noi siamo in una fase eccezionale. Noi siamo in una fase eccezionale e che vede un governo tecnico non eletto che governa il Paese facendo fare sacrifici al Paese, con una maggioranza parlamentare, non politica, non espressione di un voto, di un voto popolare, con una scadenza, a meno che non si cambino anche le scadenze elettorali, perché magari Financial Times... Ma se lei, secondo lei ci arriva al 2013 Monti? Ma guardi, se io l'ho votato, io ho votato la fiducia, e io dico che Monti ci arriva se fa le cose serie e se le fa per bene e se le fa senza demagogia. Se per esempio comincia dalle banche, dal credito, dall'energia, a fare liberalizzazioni, privatizzazioni, se vende asset del patrimonio pubblico inefficiente e così via, e se invece non gioca con i tassisti piuttosto che con le farmacie. Ma secondo lei questa storia delle banche... Non ho nessuna simpatia corporativa per nessuna corporazione, dico solo che la vedo molto ardua pensare che i tassisti risolvano il problema della crescita dell'Italia. Ma questo l'abbiamo sostenuto anche noi, ma secondo lei le banche sono in qualche modo protégé perché c'è un ministro come Passera, perché c'è un rapporto anche storico? Ma questo è banale, guardi, di solito cerco di non fare ragionamenti banali. Dica. Io dico che il problema delle banche è oggi quello della liquidità, è quello di una ricapitalizzazione, è quello di diventare europee, di diventare moderne, per esempio con servizi moderni, con prezzi, cioè di questi servizi moderni, e non le solite banche all'italiana. Per questa ragione in questo momento l'Italia, ma voi lo sapete meglio di altri, il vero problema è la liquidità delle imprese e delle famiglie. Senza liquidità non si vive. La liquidità per un'impresa, per una famiglia è l'ossigeno, è l'ossigeno dei consumi, è l'ossigeno della produzione, è l'ossigeno degli investimenti. Ora, o si fa una riflessione su questo punto, so che non è un problema solo di volontà delle banche, no. Diciamocelo una volta per tutte, le banche non si fidano di loro. loro stesse. Vabbè, basta vedere i depositi overnight, sono ecco, tutti lì dimostrando. Per esempio, non si prestano più i soldi, ma bisogna dirlo anche agli ascoltatori, le imprese americane stanno sedute su montagne di liquidità che non vanno a trasformarsi in investimenti, le banche non si prestano soldi, la Banca Centrale Europea ha dovuto fare un'immissione di liquidità all'1% e con risultati relativamente scarsi. Questo è il problema oggi del paese. Allora, o Monti, anche battendo i pugni sul tavolo in Europa, riesce a far questo, riesce a far assumere alla Banca Centrale Europea un ruolo molto più simile a quello della Federal Reserve, sì. oppure tutta la sua forza che gli diamo noi non gli servirà a nulla. Ripeto, prendiamocela pure con le corporazioni, ecco, non voglio farle perdere tempo. Mi dica solo una cosa, però, visto che nel 2013 andremo a elezioni e voi vi preparerete a governare, come giusto che sia per ogni partito, lei un governo con Tremonti di nuovo ministro dell'economia lo rifarebbe o no? Dopo quello che io lo farei con Brunetta nuovo ministro dell'economia. E Tremonti alla funzione pubblica? Le ho già risposto. Va bene, grazie. Maledetto spread, Renato Brunetta, assieme agli autori che ricordano. €3,80 in tutte le edicole italiane, va bene così. grazie. E allora, siamo veramente in chiusura, vedo molti messaggi che dicono ma insomma dov'era il governo, avevano 100 deputati di scarto. Allora, a mio avviso Brunetta un po' l'ha ammesso che non hanno saputo fare quelle riforme lì, che è mancato il coraggio, i numeri, non lo so. Di più secondo me non si poteva ottenere. Comunque, è anche un economista, non è più ministro, ascoltiamolo almeno come economista. 349-238-6666 per domani, per i vostri sms, un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.